is coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short. On the verge of snapping if it's caught. And all the pressure that's been building up for all the years and for the load. The cracks appear. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, che questa sera sono i Several Union. Eccoci qua, iniziamo con la 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Yeah. Continuiamo saltando negli anni 80 con alcune formazioni più o meno note del panorama metal di quella decade. Prima canzone era dei Judas Priest dal titolo Jawbreaker, inserita nel disco Defenders of the Faith del 1984. Band che più di ogni altro ha influenzato l'heavy metal moderno a partire dalla loro immagine fino ad arrivare al suono tagliente delle chitarre. Che ne dite? Beh, come hai detto te, hanno sicuramente influenzato tutto il metal dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Sia per il suono, per la voce inconfondibile e per comunque anche l'immagine, la cura con cui proponevano la loro immagine. Mi sono esaltato di brutto, tra l'altro, in quella solo lascia stare. Una solo. Mamma mia. Awake from the Game è il titolo del vostro disco. Quale significato che avete voluto dare a questa frase? Beh, Awake from the Game secondo noi è proprio la metafora, insomma, dello svegliarsi, dell'uscire dai... E quelle che sono le regole di questo gioco che è la vita, insomma, dalla quotidianità, insomma. Quindi l'ascolto di questo disco per noi vuole essere un riprendere consapevolezza di sé, quindi uscire dalla monotonia, dalla quotidianità. Nel 1982 esce Restless and Wild, quarto lavoro dei tedeschi Epset, con cui la band di Udo Dirk Schneider conquista gli Stati Uniti. Dal disco ci sentiamo la title track. We'll be right back. Grande formazione con 17 milioni di dischi venduti ed un'influenza musicale sui generi speed e trash a venire, cosa ne dite? Beh, diciamo che abbiamo volto direttamente la puntata, insomma, a Levi. Sì, a Levi parte. Più spianato, insomma. Comunque è davvero grande formazione, davvero, insomma, questi 17 milioni di dischi se li ha studiati tutti, insomma, grandissima voce, lo sai che da cantante apprezzo. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Beh, diciamo che nei nostri iPod si può trovare di tutto. Di tutto, le cose più impensabili, quindi gli ascolti sono tra i più generali. Diciamo che a influenzare la composizione dei brani ultimamente è soprattutto il panorama alternative, in generale quello americano, come ad esempio i Chevelle o i Submerged, o per citarne qualcuno un po' più mainstream, gli Stone Sour. Qualcuno, insomma, ne citiamo qualcuno, ma sono davvero tantissimi, insomma, onnivori di musica, diciamo così. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Warlock, la prima band di Doro Pesch, acclamata cantante tedesca ancora in attività, dall'album True as Steel del 1986 con la ballad The Love in the Danger Zone. Nella terza e quarta parte ascolteremo 6 brani del disco dei Several Union dal titolo Awake from the Game. Stay tuned! Drop off.